Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Accelerare il pagamento dei debiti non è la bacchetta magica, ma aiuta ad alleviare le imprese e perciò è molto importante, così il portavoce del commissario europeo Olli Rehn. Il vicepresidente della Commissione è tornato sullo stesso tema, ha ribadito: noi abbiamo detto che in tempi brevi si può e si deve pagare tutto, naturalmente bisogna sapere a quanto ammonta esattamente il debito. Insomma, c'è un tiramolla tra Unione e Italia sulla definizione precisa della cifra, che lo ricordo varia di fatto tra gli 80 e i 140 miliardi di euro. Intanto Tajani a Vinitaly per parlare anche di agroalimentare, un settore trainante per l'Italia e l'Unione tutta. Noi lavoriamo come Commissione europea affinché il prodotto agroindustriale europeo possa essere competitivo a livello mondiale. Se ricordiamo che l'agroindustria è la prima industria europea, quindi non possiamo non tenerne conto, è anche un fiore all'occhiello data la qualità del prodotto agroalimentare europeo, e che può essere assolutamente combinato con il turismo, perché non dobbiamo guardare l'agroindustria soltanto come un comparto, ma la qualità di cui parlavamo prima è anche un biglietto da visita per invogliare turisti extraeuropei a venire da noi, penso ai cinesi, penso ai russi. Metà dei 12 milioni di Rom che vivono in Europa sono all'interno dei paesi dell'Unione. 8 famiglie Rom su 10 sono a rischio povertà e pensate, solo un Rom su 7 ha terminato le scuole di secondo grado. Oggi, giornata internazionale dei Rom, che a loro volta denunciano: l'Europa non si occupa di noi. Ne parleremo in questa settimana, sentiremo voci della Commissione. Intanto una voce proprio dal campo, più che mai in questo caso, è infatti quello di Via Novara a Milano, raccolta da Cristina Carpinelli. Vogliamo vivere come voi italiani, sì, perché non si può andare a vivere sulle strade, dormire sotto i ponti come fanno tutti gli altri. Cioè, noi siamo tutti in regola con i documenti qua. Però voi siete in regola con i permessi? Con sì, sì, siamo tutti in regola. Da dove venite? Da quale paese di origine? Dal Kosovo. Qua in questa casa ci sono tanti bambini, c'è una stufa legna, cioè come fai tu? Vai a cercare la legna, spacca la legna e ti riscaldi. C'è la stufa che mette fumo, diventa tutto nero, che fa male pure ai bambini. Innanzitutto per le donne, che è molto faticoso. Storico annuncio del Lussemburgo, che potrebbe presto diventare un paese meno sicuro per gli evasori fiscali. La crescente pressione europea dopo il rocambolesco salvataggio di Cipro allenta lentamente le maglie degli ultimi paradisi fiscali interni all'eurozona. L'annuncio fatto ieri dal ministro delle finanze lussemburghese Luc Frieden dalle colonne della Frankfurter Allgemeine Zeitung segna una svolta. Il piccolo Granducato, unico paese europeo insieme all'Austria a rifiutare tuttora lo scambio automatico di informazioni sui conti correnti tra paesi membri dell'eurozona, ha annunciato che intende muoversi nella direzione di una maggiore trasparenza. Frieden ha citato i pagamenti degli interessi ai clienti esteri nelle banche lussemburghesi quale esempio di dati che possono essere forniti ai paesi di origine di questi stessi clienti. Poi il messaggio che segna il cambiamento: il Lussemburgo non punta sui clienti che desiderano risparmiare sulle tasse. L'Europa ha definito in passato il sistema bancario lussemburghese sproporzionato. In un paese di 2500 km quadrati e soli 500.000 abitanti sono presenti 141 banche di 26 diversi paesi che assommano ricchezza pari a 22 volte il suo PIL. Vi trovano casa anche 3840 fondi di investimento venduti in 70 paesi. Soddisfatta la prima reazione tedesca all'annuncio, il ministro delle finanze Wolfgang Schäuble ha detto che la Germania intende rafforzare la lotta all'evasione fiscale in Europa. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sono Federico Taddia e oggi vi voglio presentare il nuovo sito Consumer Classroom, finanziato dalla Commissione Europea e nato con l'obiettivo di insegnare alle nuove generazioni a diventare consumatori responsabili. Disponibile in 21 lingue, tra cui l'italiano, il portale si rivolge agli insegnanti di tutta Europa, fornendo risorse didattiche di qualità mirate ai ragazzi tra i 12 e i 18 anni. C'è poi la possibilità di partecipare all'EUforum e di attivare sinergie di carattere internazionale per creare così una comunità autorevole e in grado di migliorare la consapevolezza dei teenager che saranno i consumatori di domani. Il sito internet si trova all'indirizzo www.consumerclassroom.eu. Filippo Aureggi in regia, Gigi Donelli al microfono. Europa 24 torna domani alle 13:15.